Hashtag Autotrasporti. Hashtag Autotrasporti, buon pomeriggio da Andrea Ferro. Tra gli argomenti di questo numero, il nuovo piano neve elaborato da Viabilità Italia, il calendario dei divieti per i mezzi pesanti nei giorni festivi, notizie dai porti di Taranto e La Spezia. E alla vigilia dell'inverno e dopo le prime spruzzate della scorsa settimana parliamo del piano neve pubblicato da Viabilità Italia, la struttura istituita presso il Ministero dell'Interno per la gestione, anche in termini preventivi, di eventuali emergenze lungo la rete stradale ed autostradale. Il piano contiene l'elenco e la classificazione dei tratti più a rischio, una quarantina sui quali in seguito a determinate condizioni atmosferiche sarà interdetta la circolazione ai mezzi pesanti per i quali sono predisposte le cosiddette aree di accumulo, cioè temporanei spazi di sosta individuati direttamente all'interno dei tracciati autostradali oppure lungo la viabilità ordinaria. Quest'anno, con una scala di colori, sono codificate e classificate le situazioni climatiche in modo da predisporre gli interventi più adeguati attraverso un potenziamento dello scambio di informazioni tra i soggetti che gestiscono l'emergenza, informazioni che poi vanno subito trasmesse attraverso vari canali, dalla radio a internet, a chi è in transito sulla rete autostradale, quindi a partire dagli autotrasportatori, secondo i quali negli anni scorsi si è assistito a chiusure di tratti autostradali disposte anche se non sussistevano condizioni particolarmente critiche. Sul nuovo piano neve abbiamo sentito Amedeo Genedani, presidente di Unatras e Confartigianato Trasporti. È stata creata una sinergia fra tutti i vari attori che saranno quelli, diciamo, responsabili della viabilità: autostrade, protezione civile, carabinieri, polizia stradale e le prefetture regionali. Quindi con una maggior sinergia si spera che ci sia un'uniformità maggiore nell'intervento delle emergenze, soprattutto identificate con dei codici colorati, che in pratica è come dare un ordine, cioè il colore verde corrisponde a, quindi ti devi comportare in questo modo, quindi ci dovrebbe essere una maggior sinergia e automaticamente risolvere, diciamo, quelle lamentele che portavamo avanti gli altri anni, in cui magari in un tratto c'era il sole ma c'era il divieto e nell'altro tratto c'era la neve e invece il divieto andava bene. Quindi una maggiore sinergia fra le varie istituzioni, fra i vari attori. Vedremo l'evolversi della situazione e valuteremo passato, diciamo, questo inverno, che speriamo con delle nevicate scarse. In contemporanea alla presentazione del nuovo piano neve, Autostrade per l'Italia, in collaborazione con la Polizia Stradale, ha lanciato una nuova app dedicata agli autotrasportatori e disponibile gratuitamente sugli smartphone. Si chiama My Way Track e vuole essere uno strumento di supporto in grado di fornire notizie sempre più aggiornate sulla viabilità, quindi su traffico e meteo, come appunto richiesto da chi transita quotidianamente sui nastri d'asfalto alla guida dei mezzi pesanti. Ascoltiamo Paolo Berti, direttore centrale operations di Autostrade per l'Italia. La sollecitazione che è stata fatta subito l'anno scorso è stata accolta, quindi i nostri protocolli sono stati rinforzati in questa ottica senza stravolgere il piano di base, nel senso che in caso di condizioni in cui c'è una strada innevata sappiamo che in particolare i mezzi pesanti su delle pendenze, anche piccole pendenze, hanno difficoltà ad andare anche se dotati dei mezzi dispositivi tipo le gomme o le catene a neve. È chiaro che la sollecitazione che è stata fatta sarà un'applicazione più trasparente e la stessa app permetterà di dare informazioni in maniera più rapida e più coerente senza il normale dilazionamento di tempo che passa attraverso una comunicazione radio oppure una comunicazione televisiva attraverso la stampa, insomma. Quindi l'app penso che darà informazioni e sarà una, siccome avrà una, cioè, ci sarà un accesso anche da Viabilità Italia, che gestisce la Polizia Stradale, permetterà di dare informazioni, diciamo, trasparenti, coerenti e coordinate soprattutto. Un'altra questione in queste settimane al centro dell'attenzione del mondo dell'autotrasporto è quella del calendario dei divieti per i mezzi pesanti nei giorni festivi e in determinati periodi dell'anno. Le associazioni di categoria chiedono più elasticità nell'applicazione del provvedimento, soprattutto durante quei fine settimana non particolarmente trafficati. Si parla di fasce orarie e di modalità di transito diverse. Anche da parte di ANAS c'è la disponibilità a modificare il calendario dei divieti. Al nostro microfono il presidente Gianni Vittorio Armani. Diciamo, su questo si può lavorare per cercare di migliorare e focalizzare i divieti, sicuramente con un'informazione più pronta e più efficace si può provare a ridurre questo calendario e renderlo più compatto. Noi stiamo lavorando per dare un servizio continuativo, sempre più, diciamo, che renda le strade sempre più disponibili. Questo ovviamente è possibile se le strade sono ben manutenute e ben gestite. Ecco, questo è un obiettivo su cui ci piacerebbe e ci piace essere misurati. Su questo abbiamo con il Ministero definito un nuovo contratto di servizio in cui appunto la mancanza di disponibilità delle strade viene penalizzata economicamente per l'ANAS. Sulla strada intrapresa per garantire la regolarità e l'efficienza dell'intero comparto dell'autotrasporto cambieranno le modalità dei controlli sulle imprese. A definirle è il protocollo che i ministeri di infrastrutture, interno e lavoro si apprestano a firmare. In sostanza, gli accertamenti finora svolti separatamente da personale delle varie amministrazioni saranno integrati all'interno di uno stesso schema. L'obiettivo è rendere l'attività ispettiva più completa ed efficace. Inizialmente questo nuovo sistema di controlli sarà avviato in forma sperimentale in 3 regioni, Veneto, Emilia-Romagna e Puglia. E ora uno sguardo ai porti e andiamo a Taranto, città segnata dalla vicenda Ilva quanto il suo scalo marittimo, che ora si appresta a subire una vera e propria trasformazione grazie ad interventi per oltre 500 milioni di euro. Lo stanziamento dell'ultima tranche, 86 milioni, è stata deliberata nelle scorse settimane dal comitato portuale. L'obiettivo è attirare e diversificare i traffici rilanciando la catena logistica del territorio. Il commissario straordinario dell'autorità portuale di Taranto, Sergio Prete. I significativi investimenti che si stanno realizzando nel porto di Taranto, oltre a quelli che l'altro giorno sono stati previsti per il 2016, sono interventi fondamentali per l'adeguamento e il potenziamento dello scalo ionico e sono tutti destinati a, diciamo, ad aree, banchine ed attività differenti da quelle industriali che hanno connotato in qualche modo il porto di Taranto nella sua storia. Infatti il porto di Taranto è stato sempre prevalentemente un porto industriale, adesso invece puntiamo molto sulla parte commerciale, in particolare sulla logistica e sull'intermodalità, e cerchiamo anche di sviluppare un'esigenza che il territorio ha, che è quella di crescita del turismo. La questione dell'Ilva, che pur se avviata a soluzione o meno, comunque ha dimostrato come appunto la prima regola dell'economia è quella della diversificazione, no? e di avere, come posso dire, più attività e più clienti. Dal porto di Taranto a quello della Spezia, dove il traffico di container è in costante aumento quanto quello dei mezzi pesanti. Negli ultimi mesi la circolazione, l'entrata e l'uscita dallo scalo ha subito una mini rivoluzione, inizialmente contestata dalle associazioni degli autotrasportatori, di cui la richiesta di una serie di modifiche al piano della viabilità che, dopo vari incontri, è stata accolta. Ora le cose sono migliorate a favore sia degli autotrasportatori che della città. Il presidente dell'autorità portuale della Spezia, Lorenzo Forceri. Siamo entrati nel merito della soluzione e abbiamo accolto con favore anche diversi suggerimenti che sono venuti dagli stessi autotrasportatori e dai loro rappresentanti. Porta collegata all'autostrada con una galleria subalvea e sfocia in autostrada quando in uscita, sia in entrata senza interessare un metro quadrato di viabilità urbana, e questo credo che sia un risultato molto significativo e importante, e della collaborazione degli autotrasportatori a questo risultato voglio dare pienamente atto. Uno sguardo alle notizie dall'Europa. Dopo aver imposto il salario minimo anche per gli autisti di imprese straniere impegnate nei servizi di cabotaggio, la Germania sta valutando un nuovo provvedimento finalizzato a contrastare il fenomeno del cosiddetto dumping sociale, cioè quella forma di concorrenza sleale praticata in particolare dalle imprese dell'est europeo attraverso condizioni di lavoro diverse. Al vaglio del governo tedesco una norma che vieta di trascorrere nella cabina del camion il riposo lungo settimanale di 45 ore. Provvedimenti legislativi analoghi sono già in vigore da tempo in Francia e in Belgio. Hashtag Autotrasporti per oggi finisce qui. Vi ricordo l'appuntamento del sabato 13:15 con il settimanale di approfondimento container dedicato al mondo dei trasporti. Grazie per l'attenzione. Da Andrea Ferro, buon pomeriggio. Hashtag Autotrasporti.